tranquillo. Il dragone è mio. Non so se anch'io scarpo per il voto. Primi tempi, adesso non è più usata, sta roba vecchia. Ma lascia io, perché quello mi confuso. Intanto, se serve, c'è usato un attimo fa la freccia che documento, non puoi dire qua. Grazie, scarpo. Io ho usato Skype, Van Basco, quel programma di canzoni, da 1500 di canzoni, solo che vuole scaricarlo. Dipende, non scherzando, usiamo un disco esterno da 250. Esatto. Lo Skype, se non ti scherzano, 250 fai prima. Stai uscendo, quanto è stato strano. Lo Skype, se non ti scherzano, 250. Yeah. Stai uscendo male di radio. Adesso? Adesso no. Ancora? Ma adesso è chiaro. Ma no, è di prendere un nuovo microfono, capito? C'è qualche filo che fa, faccio contatto, magari con me in mare, ma vecchia questa radio qua. No, sai cos'è? Il capo, lo spinotta, non stringe il capo, capito? Che lo stringe? Non lo so. Non stringe, pazienza, usare senza tirare il capo. Lo stringi, lo sai perché? Perché ci vuole quella plastica o nero trasparente tra il filo e il borsetto. Non ce l'ho per adesso. Qua si metterò qualcosa lì in mezzo, se ho qualcosa da metterti, se no pazienza. Basta anche una giratina fino a fine di nastro, perché se la metti grossa non ci arriva. Io sono così, tengo il microfono vicino. Se ti tengo molto il microfono ti prendo lo stesso. Vabbè. Attenzione, riprendi. Mi stavo addormentando un po', una poltrona. Ma si stanca? Un pochino. Ma per cosa stiamo parlando? Microfoni. Ah, sì. E vabbè. Vabbè, ricontinuate, dai. Oh, Cristian stava dicendo che il suo microfono fa difetto perché praticamente gli manca quella plastica che fa bloccare dal morsetto il filo del microfono. Di nuovo, capito? Chiaro. Basta adattargli qualcosa. Una passata di nastro basta darmi, fina, perché sennò poi lo stringe. Beh, vedi che non c'ho niente qua a disposizione, capito già? Attrezza. Atleta, non sto più uscendo di casa, sono già una settimana come sto mal di schiena, mi sta ammazzando, non sto più uscendo. Comunque lo sai che a me mi è successo la stessa cosa, c'ho un mal di schiena, mi fa male tutta la gamba, la sciatica a me giù. E vabbè, sta questo che hai fatto? Credo già, potrei stare anche sul letto. Già l'uretto, sì, non saranno gli strappi che faccio lavorando. Già, perché travagliendo. Ma tu? Sì. Se ti ha fatto la schiena con la casa d'acqua, a parte all'altra, se ti ho detto QRM a Santiago 7, cosa ha detto già? Ha detto che lui ha fatto uno strappo alzando una casa d'acqua, per farti capire che non ci vuole nulla. Cappa. Lo so già, tu lo sai benissimo, io ho fatto un lavoro pesante, e così che... Cioè, io sono soggetto, ma a me no, grazie a Dio, cioè no, di questi strappi non ne ho mai avuto, non mi ricordo, che mi ricordo, no, forse qualcuno così, qualche dolorino così, ma di queste cose no, perché la mattina prima di cose, cioè, cerco un po' di fare movimento prima di prendere bombole in mano e cose, magari non mi frega per quello. E a volte a freddo ti frega. Sì, di sera. Già lo so che ti frega, c'è sempre il rischio. Ma comunque, grazie a Dio, no, non me ne ha mai fatto. Non sono sempre a letto, sempre a letto, che te l'ha detto? Sono sempre a letto quando c'ho capogiro, non posso stare in piedi, allora sto a letto. Se no io aiuto mia moglie, cucino, faccio, non è che stia fermo. Già lo so. Vabbè, giusto per dire così, già lo so che non c'è sempre a letto, però stando fermi molte volte è stato un casino. Poi con quella mala sorte che cavolo che è venuta è un macello stare dentro casa. Dico una cosa, che l'altro giorno mi hanno fatto tutte le manovre, tutto quanto, sembrava che non avessi niente. Torno a casa e mia moglie mi ha detto, ma dai mamma, non puoi mettere la busta della spesa che è pesante. Come mi sono inchinato, ho detto, ben bene che sul capo giro, ui. Portato un quarto d'ora così. E mi dici cosa ti hanno detto già? Quando chiudono la cartella, mi fanno tutta questa terapia, se quando chiudono la cartella non danno un verdetto. Loro possono danno quando chiudono la cartella, che mi fanno tutte quante le sedute, allora mi danno risposta. Pagappa, un casino è già. E sto pensando una cosa, cioè comunque tu sei sempre a punta a capo, no? Che senso? Il capogiri è sempre, cioè ce li hai sempre. Sì, anche se è minima parte adesso. Non posso paragonare i capogiri che ho adesso con quelli che ho avuto il primo giorno, perché altro sarebbe una bugia. Ma diciamo che ho episodi adesso, e ho episodi. A volte mi succede, a volte no. Gatto. Sì, sicuro che guarisci bene, perché già lo sai che in macchina quando lavori ci sono degli sballottamenti terribili. Quello sì, infatti me l'ha detto, assolutamente non guidi la macchina. Se vuole uscire può uscire, ma guidare la macchina si faccia anche accompagnare se esce, mi ha detto. Gatto, è ben logico, deve esserci un'altra persona. Quello sempre già, finché stai così sempre una persona a fianco. Vabbè, volevo di starci poco perché mi sono già stufato di stare in casa. E ho già. Ah, yeah. Gui. Paolo, dove? Non sta facendo cosa? Ah, vabbè. Sicuramente siamo qua. Va bene, andrà bene. Aspetta che ti chiamo un attimo al telefono. Va. Un attimo, un secondo. Gianni, ancora c'è. Uno di bianco. Ma non c'è nessuno qua. Sono io, perché? Gianni, Antonio. Un attimo di bianco. E via. Che fa? Aspetta un attimo, sto cercando una base. Una canzone, aspetta. Che base vuoi? Eh? Che base vuoi? Sì, ancora. C'è Angelino che sta chiamando, Geri, tu sei? Un amicaccio qua, Geri. E io sono Gigi Vulcano con la mia BM direzione casa e sono quasi arrivato. La Maddalena già ieri e oggi adesso sto rientrando. A te oggi mi è andata bene, ieri sono rientrato più tardi. Gianni, io ti saluto, se mi ascolti ancora, dai, sto arrivando a casa. Eia! Eia! Ci siete? Ascoltoni, ci siete? Grappa che ci sono. Bistia! Eia, eccomi qua. Ha ragione, Zane, lasciata tu. Ah, entro. Via. Che è io non sarà già a dopo adesso. È arrivata ottava quando l'ho sentito io. Sì, ma dovrò andare a metterci il camion col rimorchio nell'azienda. Perché ho pagato. Va domani. Come stai duro? Non è così. Molti chilometri fanno. Gappa, è un mestiere che devi prendere con molta serenità, tranquillo. Oggi, meno male che cioè, l'unica cosa che hai per poter metterti in contatto, siccome sei da solo e cosa, c'è il baracchino. Adesso ci sono anche i telefonini, ma comunque il baracchino è la cosa che usano la maggior parte degli autisti. Parlare uno con l'altro, farci compagnia, se devono chiedere un'informazione, una cosa. Gappa, e poi rientrando a Sassari e cose che c'è, dai, se la gente è qua, se ti fa compagnia per tutto il viaggio, almeno non ti senti mai solo. Ma quando uno non va nulla in camion è triste. Sì, a volte ci sono quelli che si accendono la radio, poi ci guardano il televisore, chi mi dice per tutto, c'è il televisore, radio, tu cazzo. Pagappa. Immagino una cosa migliore quando uno sente qualcuno, dai. Si fanno discorsi, si deve chiedere un'informazione, la può chiedere, è una cosa diversa. Pagappa, è bello, dico, si fa un bel discorsetto ed è tranquillo. Così funziona già. Mi fanno le battutine, ridono, almeno li passa un po' la giornata, sì, e poi quando vai a cadere i chilometri da rimasti in gambe, e con quei camion lì fai piano, non è che puoi camminare in sagato, vabbè che già camminano anche quei camion adesso. Non vai a culo di stress, in voce, Quando sei carico non puoi camminare più di tanto, quando sei carico. Lo so, purtroppo. La tira, io so che più di quel tanto non ci puoi andare. I dischetti ci sono, eh? I dischetti, se ti ferma la polizia, sono cacchi. Tirata. No, adesso ci sono anche elettronici, sono. Maschera elettronica. Sì, gli ultimi sì, lo so. Allora, quanto ho capito io, lui ti segna tutto, eh. Diceva anche qualcosa con la scheda elettronica. Beh, sembra che devi andare non so dove a richiederla, a tutte le cose. Sì, ti fanno il documento personale, praticamente c'è scritto il tuo nome. Devi inserire la scheda e roba tua personale, capito? Cioè tu la inserisci, è testata a te. Ogni azienda fa testare al suo autista la scheda. Tu metti la scheda a nome tuo, capito? Poi tu cambi ditta e usi sempre la stessa scheda, non è che devi usare un'altra. Beh, certamente che sì. Invece di usare il disco orario usi quello. E quello lì però è una cosa diversa perché ti rimane sempre. Qualsiasi camion che vai, che ha quella cosa lì, va bene. Sì. Diciamo che è anche più pratica, perché l'altro devi stare ogni mattina compilandolo, mettendo i chilometri di partenza, devi trascrivere i chilometri di arrivo, ti faceva tutto il tracciato, tutto quanto, li devi conservare per, mi pare, 15 o 20 giorni, un mese forse. Ma sai che la polizia ti poteva chiedere anche quelli precedenti, di 20 giorni prima. Già, insomma, tuttora sicuramente è così. Non lo so come sia, se ogni volta che lo usano poi cancellano tutto. Non lo so. Comunque in ogni caso, sono molto più pratiche adesso. Lo so. Sono più pratiche sì, perché magari non è con la rottura di scatto, tanto è una scheda, ti segna tutto lì, ti segna. No, non hai nessun problema. L'autista moderno già. Noi ce l'abbiamo ancora a dischetto, ti dico la verità, Lo devono cambiare il camion, magari arriva così. Certo, se lo prendono nuovo, sì. Intanto ne abbiamo scherzato uno, due, tre, quattro, 5 mesi. 5 mesi dobbiamo comprare nuovi. No, nuovi ne abbiamo preso due. Altri due sono così, Ducato Maxi e un Ducato corto, e poi abbiamo preso anche il Ford, il 100, il camion grande. Come furgone che preferisci? Quello mio, quello che c'avevo prima, però non questo di adesso. A confronto al Ford è molto migliore lì, vecchio. No, non è il vecchio, il mio è Daily di multijet. Daily è cosa dà Daily? È il vecchio, è quello. Sto sbagliando, Ducato vuol dire, non Daily. Lo fa lei vecchio. Fiat Ducato è il mio. Ah, cava. Diciamo che in mezzo c'è anche il Ford, no? Il Ford cammina di più. Cammina di più di chiuso. Meglio. Ma cosa sarà? Se è più forte di cilindrata o di cavalli? No, no, è proprio... è un 2005 come quello che ho io, solo che cammina di più. Se bisogna avere quanti cavalli a uno o quanti cavalli all'altro. Non lo so, non mi gioco mai a pintata. No, me ne frega niente. Ma quello lì non lo usi mai, però. Ford, sì, quando devo portarlo a fare il tagliato. Ah, solo per quello. Credo che lo usassi, cioè lo usi anche tu. No, quello lo usa la Stintino. Come così è? Le commesse che fanno a Stintino viaggiano con quello, poi lo usano per far portare le spese a Stintino, capito? Ma anche quel servizio lo fanno anche a Stintino. Meglio. Le scuole. E lui sì. Comunque ti vanno bene, dai. Vaga, va. Sì, sì, no. Diciamo che cammina di più. Senza dirlo. Comunque, preferivo sempre quello vecchio. Vabbè, già. Abituato a quello là, perché magari si è distanzata, ecco. Ma comunque c'erano, mi sono loro che non ne hanno preso, c'era quello lo moderno, uguale come quello. Non lo so, ma l'ha preso un autista, mi ha detto che prima quel vecchio ha fatto la cazzata di prendersi il nuovo, non senza più come quell'altro. Va più bene. Sì, bene va bene. Ha la sterzata diversa però, l'altro sterzava di più. Scappa. Ma sicuramente andrà molto meglio di quello che hai. Senza ombra di dubbio. Doppie le gemellari dietro, c'ha la radio di serie, c'ha altre cose, c'ha l'aria condizionata, c'ha un sacco di roba, però costava troppo. A me pare che domanda dove andare, si arrangiali. Si arrangiano a farli fare il tagliato, si arrangiano a fare tutto, non me la futti nulla. Che pagata. Capito? Già, certo che non è che sia molto. Potevamo domandarti anche il parere, giusto per avere un mezzo migliore, solo che è decina futtini. Io avrei detto di prendere il Dini, di prendere il Dini di nuovo, invece era il bilancio di Ducato, per carità. Non è male su strada, tu, perché non è male, c'ha sei marce e cose, però sono presi incazzate, l'aria condizionata che per chi sta dentro ci vuole d'estate, se non ti fai di gribà. Dopo, oltre all'aria condizionata, le gemellari dietro, perché quando carichi, anche se questo c'è un sistema d'aria, ma in questo caso mi usa andare dal gommista a farla gonfiare quando sono carico, per farla risgonfiare. Io pigliavo un compressore in ditta. Ah, già, evidentemente l'hanno chiesto loro anche così, altrimenti non è così, Ci sono quelli diversi, cioè, quelli più forti e tutto quanto. L'hanno chiesto loro così, cioè che hanno l'aria condizionata, tu chi sei, tutte quelle opzionali. Evidentemente l'hanno chiesto loro, normale, se no c'è. Già lo so, normale lo paghi di meno, no? Capo, è la ditta tua che è così. Ma poi mia, tu non c'è bisogno di dirmi, non lo so. Ragazzi, allora hanno risparmiato di nuovo, già l'andavo e da lì viso. È così. Non lo sai com'è. A me non c'è più. Ehi, purtroppo noi, Antu, dobbiamo abbassare la testa e camminare, boh, basta. Non facciamo, non serviamo a nulla. Decidono loro, non ti chiedono un parere, anche se tu stai 24 ore su 24 su un mese, non ti chiedono un parere, secondo te è meglio questo o meglio l'altro. E allora vabbè. Io lo guido e boh, non faccio altro, io sono autista, lo guido e basta. Prima lo lavavo, lo facevo. Vengono male di tu chissà cosa, che se toccavo qualche macchina me la dovevo pagare, non c'è manco più lavato. E allora già la faccende pure ubito. Ma la fine dei conti no, non te ne ho fatto pagare. Allora, tutti. Sì, ma perché già te l'ho detto, mi sono rivolto all'altro, perché se no è dovrò quasi a pagare. Devo pure guardare. Oh, Giulia, dai, chi non te ne chiamato, no? Sì, sì, sì, tramite una commessa. Non so immaginare. E te, beh, come stai? Se ero in fede, io sono ritornato, non ti ho trovato, questo e quell'altro, stamattina mi hai tirato di tu e ti diciamo... Ecco, io me l'avevo detto in faccia. E dove tu, se sono a casa è perché non sto bene, se no, se c'è cosa c'ha di preciso indagando, e quando rientri, ha detto, beh, veramente... Dovrei fare una visita lunedì, se lunedì sto meglio, martedì rientro. Ah, vabbè, mi ha detto, vabbè, fregatene, se non stai bene non rientrare, no, già, mi ha detto. Tu non si merita già di nulla, mi ha detto. Ah, io credia che era una cosa del buroete, tutti gli altri. Sì, capace che ha fatto la commedia, no? Cappa, magari io te ne so, per la colomba d'ascolta atteso e curare ci recipe di bronte, ma non credo, dai. Fido più di nessun altro, chi è avanti? Io Alex sono. E allora, da Roger, da Lombardi. Cappa Alex, cappa, cappa. Il suo mio acceso. Oh, iaia. Allora, senti i combinenti. Stavo a bocca. Facendo un discorso tranquillo, là. Così almeno qualcuno ascolta, si fa le orecchie. Cappa. Beh, fedi mi sa bene, cos'è il tuo discorso vento? Ma di femmine si tratta, se no non mi piace. È una femmina in mezzo di avve. Di avve una femmina, era una commessa, ma ci ha fatto vedere come ti stavo. A me pare la vera di tuo a telefonare. Bombolino. No, lo si pari, a vedere come ti salvo. Ah, li bussati, a te. No, se si fa imbarcarmi. Mi imbarcano. Non ti preoccupare. Non mi fido più di nessuno. Arrivati a questo punto. Troppe malignità nella vita ci sono. Certo, te ne sei già, mamma di tu. È così, purtroppo è così, ma mia. Questi paesi che si comportano così, perché poi si perdono anche la fiducia della persona, eh. Ho penso una cosa, che essere bravi in questa vita non conviene adesso, bisogna essere più male di là. Non ci riesco, non sono capace, lo so. A me sta di una cosa già, e bisogna fare i bravi anche con la gente che sa che si può fare. Sì, quello sì. Infatti mi comporto sempre in conseguenza, tanto. Ma se la bravi. Io mi ci da pizzo della gioca. Sto vaccinando, se avevo fame. Sempre mangiando questo Cristo sta bobo. Tanti, io ce l'ho mangiato due o tre mezzine per cena, cosa pretendete? Già sei stato bravo, là. Io sai che cosa ho mangiato io? Pappone Herbalife. Tu si mangiava quando lavoravo per cena 3 litri di pasta. Quanto è ingrassato da quando eri là? No, stavo dimagrendo. Dimagrendo? Che va dimagrendo? La pasta fa ingrassare, io non ne mangio mai di cena, non ne faccio mai. Io prendevo un panino al volo, proprio un panino 10 minuti e subito a lavorare. E continuato a farcelo. No, ma sono fuori, un panino, un'oretta di riposo e poi andiamo a lavorare. Ah, ma questo secondo che... Senti il televisore. Pagappa, con un esperto QRM mi sentivo tutti chiari. Perché 400 volentieri da 30 al giorno andavano messi, eh? Sono un po' di QRM, finché non spengo il televisore. E me lo crea il televisore un po', soprattutto questi televisori di adesso, sono un po' più garogna e me lo creano un po', ma comunque, un po' già va meglio. Un televisore, minimo a 32 anni, è proprio che va benissimo. E no, non è così, no, non posso spegnerglielo, non posso fare, non è fa vedere un baracchino che posso andare a spegnere il televisore, no, che non è il mio. Ma io sto dicendo, io ho un televisore qui che ha 30 anni e funziona da Dio. Io invece ce l'ho spento. Alessandro. Bobo Voli. Eh beh, allora, sai che conosco questa voce nuova da poco, che poi da poco non c'è, perché se è quello che sto dicendo io esiste da molto. E chi è adesso? Bufalo, a te stavo dicendo, proprio a te. Sei quello che sto pensando, sì. Tu pensi quello che conosci, quella piccola persona del portino, sì? Yeah, va, ho capito, dai. Va, ho capito chi sei, dai. Ho cambiato l'apparato, che il mio si è guastato, c'è un apparato, esce 2 watt con microfono, un microfono, ora. Agatta. No, ma già sto uscendo abbastanza bene, qua mi arrivi in Santiago 9 con Radio 5, se non fosse di più di Santiago 9, ma comunque già va bene. Dai, beh, esci che vado, mi dirigo verso casa, che sono in viaggio, insomma, ci si vede che sono in movimento, sì. Era grande. Dove sì? Ah, attende Farendi che c'è Santiago, no? Dove sei adesso? Sto salendo da Platanona perché sono andato in un posto a salutare un'amica e dopo, ciao, a me sono andato. Devo fare cosa? Ah. Questa risatina strana! Dai, già ci sentiamo, vabbè, già sono sempre qua comunque. Già ci sentiamo dopo, magari a casa. Gabba gabba. E dove sei adesso? Sono adesso, dalle parti di prima del lunesso, di qua, salendo. Se la Platanona va c'è lunesso, cosa si dice? Cosa? Platanona? No, è di Platanona questa, ma vabbè, dai, è una cosa longa, già, non posso di tiro. Ah, ti già compreso tutto. Al centro commerciale ti accompagno? No. Che vuoi che è? Boh, questa Platanona. Però quello è un bel posto, eh? Platanona, non credo. Io al centro commerciale ho avuto la casa un'estate, sono andato a pescare mia moglie con i bambini e sono andato a pescare una notte. Mi ha telefonato, già torna subito, qua c'è un casino. Che casino c'è? C'ho paura, c'ho solo sola con i bambini, c'erano solo tutti gli allarmi, gli allarmi delle macchine, i cani che abbaiano, ci deve essere successa qualche cosa. Siccome era il periodo che avevano trovato, poco prima avevano trovato quell'attimo che avevano decapitato lì. Sì, lo so quella storia, poi ti racconto in verticale cosa è successo, va? Fatto sta che, sì che lo so, ho seguito i giornali, lo so cosa è successo. Fatto sta che sono tornato, cosa avevano fatto la notte? Avevano aspettato che una macchina entrasse per piacere le vetture, ecco, gli avevano messo un pezzo di carta adesiva nella spia, nella fotocellula, per non chiudersi. Spaccato un paio di vetri di macchina, hanno rubato stereo, tutto quello che c'era dentro, cioè una grefa. Non è più di me, già, stai tranquillo, io ne so molto, molto più di te, lascia perdere. Io, vabbè, a me non mi interessa entrare in particolare, io mi ricordo solo il fatto e mia moglie era spaventata da quello. Senti, io dico solo il fatto che il padre di quello che ha ucciso quella tipa lì in ufficio aveva nascosto un bel di roba. E lo dico sia appartamento. No, guarda, ti sono fatto qui, per qui non fa, dai. Iaiai, non me ne dire di questa cosa, non mi voglio sapere. Mamma mia. Non fa, perché so chi l'ha ucciso, che ha ucciso la tipa e si è impiccato anche. Impiccato sì? Sì, sì. Ma l'avevano arrestato. E si è impiccato in carcere. Muso. Oh, sotto terra, Ehi, vabbè, l'aveva fatta troppo grossa. E sai che non ci vuole fare la tipa, ma con 12 anni lui. Minchia, che coraggio però. Mi conosco abbastanza bene, lascia stare. Lui ci va a 14 anni con un 740 con 3 polacche dentro. Vabbè, non ne parliamo, non ne voglio sapere. Pagamo. Io so solo che mia moglie era spaventata da questo fatto che era successo, quindi voleva un po' di protezione, sono dovuto ritornare indietro, c'era un casino davvero. Quando sotto l'altro c'erano minieri, cosa, mi hanno chiamato, tutte le macchine che avete spaccate. Ma come era arrivato pure la mia? Già, ti racconterò, dai, quando ci vediamo a praticare, va. Camaga, Anto. Sono cose brutte sono, cavolo. lasciano la macchina a capo, ti fanno incazzare. Purtroppo. Io mi avevo fatto un casino, no già. Ehi, avevano tenuto il cancello aperto, tendoci un adesivo sulla fotocellula, è entrata una macchina, come si è aperto il cancello, avevano messo un adesivo sulla fotocellula e l'hanno tenuto aperto in modo che potessero scappare, capito? Scappano, sono macchine. Macchina, sono macchine. Una volta lì, ora, siccome questo amico mio doveva andare a pescare con me, no? E cosa è successo? Che alle 4 di mattina siamo andati all'appuntamento all'entrata del cancello, perché lui non sapeva dove era la casa, capito? Dice, come faccio a entrare al cancello? Ti aspetto fuori, gli ho detto, le mie vieni però mi bruciare. E arrivo verso le 4 meno 10, stavano ritrovando l'entranese, tutte minigonne, tutte scollate, stavano tornando a quel locale che si chiama il Veliero lì, non so se lo conosci. Fatto sta che questa qua ha preso questo tipo robusto, si era tutta magia delle minigonne, tutta cosa in pelle, tutta in pelle, vestita in pelle. E mi ha fatto questa amicomia, mi sembravo io, che me la stavo baciando, dice, cazzo, già l'ho fatta grossa oggi a venire qua. Ha visto la macchina mia ferma e poi ha visto quella lì, a cippendo con questo tipo che era più o meno la mia altezza, e pensava che fossi io. Pessoga. Ma poi te l'ha detto a te, sì. Se ne stava per andare. Ho visto che se ne stava a dire in macchina giù su un altro, già. Come è giunto un raio, ma di tu cazzo. Adesso, quando uno non lo sa, non vede bene. Ma lo sai cos'è il problema, già? Che ci sono quei... chi si battecoli che magari non ti denuda o non ruba delle cose da poi andare a spifferare tutto. Cose che non sono vere, meno male che ti ha visto. Ma ci sono due, si da se ne rende. Gianni, io mi servo lì, mi pesca, mi servo io. Vedi, ma sei tu commerciale? Io mi servo lì, l'altro giorno che ero con un amico, mi sono passate queste quattro ragazze, mi sono messo la mano in testa. Sono belle ragazze. Cos'è che sta sovramodulando? Se lo sovramodula qualcuno, lo sì. Ma non lo passo. E vabbè, per passare c'è sempre il tempo. A chi è che stai sovramodulando? Well, vai. A fratello sta sovramodulando. Tu dici però, oggi con te, no, ma è sempre un passo, finito. Però poi sovramodulerà qualcuno, no? E ma il fatto che tutti si possono organizzare, non sei l'unico. Infatti, è una sfida, vedi, è come una caccia al tesoro. Questa è caccia alla portata. Chiaro, se lo vuole può fare qualcosa, va, ci vogliono. E non tanto va, ci vuole te, infatti, che va. Va, sono cose irrisorie. Attacchi l'accordatore e mandi potente, poi il gioco è fatto. Che bisogno di fatto, ma parlano delle spurie. Lo so, purtroppo mezzo a quello li mandi, per forza. Io sono anche un pipistrello, mi esco di notte, quindi in macchina ce l'ho l'apparato, per cui nemmeno il vatto devo attaccare. Ma sono pipistrelli, cosa non i tassisti, tanto tempo fa. Eia. Pipistrello, se mi è venuto in mente già. I notturni sono, i pipistrelli escono di notte, quindi chi esce di notte lo chiamano pipistrello, anche gli amici che escono di notte li chiamano pipistrelli. Ma i pipistrelli tanto tempo fa erano proprio i tassisti, perché erano gli unici che comunque parlavano di notte, perché i camionisti non si sentivano mai, adesso si sentono. Camagallo, vecchi tempi, che. Tempi or sono. Triste leggenda, eh? E' un vino di forza. Ma c'è la storm, cioè. Come? La storm, cioè. No, non so cosa c'ho, boh, un pezzo di ruccio, no, non è storm, non lo so, forse quello che sia storm, no, della Midland, non lo so più come si chiama, è un bastone di scopa che non serve a niente, infatti uno di questi giorni mi sa che serve una rete. E già arrivi, beh, Santiago, no, ce l'ho io. Ce l'ho io. Chi è che sono modulato? Ah, Alex, ma non ci avrai com'è? Nera è questa antenna, piccola, sarà neanche un metro. Sì, nera, piccola, ma neanche un metro. Rossa. Giallo. sì, c'è un adesivo giallo. Gaba uguale alla mia, meno la dare mai a nessuno con la lì, potente con l'antenna. Ma non senti quanto usci forte? E sai poco poco con l'apparecchio come si deve, guai. Ma gli apparecchi ce ne sono tanti, non li accetta. Ma non se ne possono usare. Gaba Gaba, no no, ma per dire con l'antenna è un bel buona, perché ce l'ho anche io uguale. Gaba, cava le rose, cava le volete, ma Gaba Gaba. Lo fermi già, fai girare tu. Tanto, ma perché sei così mandro non ti buona l'antenna come si deve? Perché io sono stato tanti anni già, tu lo sai, che ho speso miliardi per uscire forte, e mi posso, e posso dire che uscivo forte, ma adesso non me ne frega più niente. E vabbè, vabbè, tutti hanno speso, e stanno continuando a spendere. E tu, chi sono? Io ho avuto... un sacco di roba, ho fatto di tutto. Dalla Kenwood sono arrivato fino all'850. Lineare avevo dal 2001, 2002, 24 serie. Solo il TL922 non ho mai cominciato. Parecchi, ho navigato tutta la rampa, le metture trovate di qua, antenne di tutti i tipi. Ho speso un sacco di soldi. E poi per avere che cosa? Nulla. Tu per portare avanti la tua passione. La risposta è subito data. Cosa pretendevi? Che ti davano i soldi per quello che avevi speso? No. No. Mi sono girato indietro e ho detto, se avessi conservato tutti i soldi che ho speso sarei stato non miliardario, ma almeno milionario sì. E invece adesso mi vedo la passata della donna e guadagno perché mi pagano pure. Ma se uno non spende, no, la soddisfazione non se la toglie. È fatto. Io avevo detto basta, avevo detto un apparecchio mi basta, tu poi già lo sai come la passione, no? Vedi uno che ti piace, ti rubini, vedi uno che ti rubini. E tu adesso basta, Barò. Sai già cos'è il problema, che l'occasione fa l'uomo ragno. lo so. Quando ero fidanzato c'era mia moglie che voleva, assolutamente, perché mi sentiva parlando con le ragazze, cosa, mamma mia, girosa. Adesso troppo di storia all'inizio, poi ha detto è giusto che ognuno abbia le sue passioni, ma tu hai la mia, uso il computer, tu usi l'apparecchio e via. E così stiamo tranquilli l'uno e l'altro. Vabbè, normale, anch'io quando ero fidanzato, la mia ragazza era gelosa che io parlavo a baracchi, lasciava anche tutte le leggi, puoi dire esserla. Anche come? Quindi, non è che ne posso fare una colpa, allora, magari ne potevo fare una colpa, oggi che ci penso, dico, in realtà non è la colpa, perché aveva ragione, però, già, sai cos'è, quando attraversi un arco della tua vita, pieno di... è come quando ti trovi, cosa ne so, 20.000 euro nel portafoglio, cosa fai? Te li consigli, te li spendi? So, è capitato da poco, ho aperto, cosa per prendere il tonton, ci ho trovato 100 euro. L'ho nascosto, deve essere, chissà cosa volevano conservare a fare, perché so come le formiche, non voglio comprarmi qualcosa, me le conservo. Le ho trovate proprio in un momento che mi facevano bisogno. Bisogna sempre conservare, bisogna sempre mettere da parte per i momenti di magra. Io anche io metto da parte, solo che li spendo prima. Tu, non so per te, ma si potevano mettere i soldi da parte, io mettevo anche mezzo milione al mese mi da parte prima. Vabbè, mezzo milione, sì, vabbè, mezzo milione di oggi sì. Mezzo milione di allora no, 500 di oggi sì, ma non ci riesce anche a mettere da parte, ma non è più il mezzo milione di una volta già. Mettevo mezzo milione di una volta da parte, 200.000 lire, e riuscivo a campare lo stesso, adesso non ve lo dici più, non riesci più a mettere una lira da parte. Già, perché i figli crescono, hanno le loro necessità, e anche se tu dici, per esempio, cosa ne so, mia figlia o mio figlio mi chiede una cosa di cui ne può fare a meno, uno poi ci pensi, tra te e dici, vabbè, sono bambini, sono ragazzini, sono ragazzi, ma vaffanculo glielo compro, anche se, va, uno dice, va, li accontento. Prima invece l'avevo messo, poi ci quelli di un gabbaro, ma poi tu non la via, non te ne comparava. Beh, sì, è vero che è così. Io mi ricordo che la prima bicicletta che ho avuto me l'ho dovuta pagare io. E perché la moto che me l'ha comprata? Io me la gioco in parada. Solo che erano altri tempi, adesso quando tuo figlio ti chiede una cosa, tu dici, per esempio, ma parla un po' in questo momento, cioè abbiamo spese, poi ci pensi, ma tua moglie ne parla, diceva, sai, va, c'era l'amico, c'era l'amica, c'era quello, c'era l'altro, diceva, vabbè, facciamo sacrificio e glielo compriamo, gli compri questo, gli compri quello, gli compri l'altro, poi alla fine gli compareggi il lutto. Infatti. E per non lasciarmi indietro degli altri, tante volte lo fai, perché mi dice, ehi, quel bambino ce l'ha e tu io non ce l'ho, capito? Doveva essere diverso dall'altro. Bene, noi siamo stati, cioè almeno io posso dire che lo sono stato diverso dagli altri, però sono cresciuto lo stesso. Cioè io non è che a 14 anni mio padre mi ha comprato la moto, oppure andavo a fare a piedi, io andavo la moto e io mi cercavo sempre passaggi, e poi sono cresciuto lo stesso, grazie a Dio sono ancora qui. È un discorso comunque, noi, il problema è nostro già, è nostro, perché noi non vogliamo che i nostri figli passino quello che abbiamo passato noi, anche se non abbiamo passato niente di così terribile, però vogliamo sempre dare ai nostri figli quello che magari a noi ci è stato proibito. Esatto. Come per dire, mio padre non è che non poteva farlo, mi ha detto che mi dovevo abituare a guadagnarmi. Se volevo qualche cosa di mio, dovevo guadagnarmelo. Era proprio per insegnarmi a lavorare per guadagnarmi il pane, compreso. Sì, ma anche quella è una cosa giusta, perché al giorno d'oggi comunque, i ragazzi d'oggi, l'unica cosa che hanno in testa è se continui a studiare, dopo ti compra questo, poi ti diplomi, ti compra la macchina, poi ti lauri e ti regalo l'appartamento, ma fin fine poi, dopo che hanno, che gli ha regalato la macchina, che gli ha comprato l'appartamento e tutto, il lavoro lo fai, e cosa campo, non è più campo tutta la vita, no? Aspetta anche loro farsi la strada, solo che al giorno d'oggi anche siamo un po' incasinati, non solo dalla crescita dei figli per i soldi, anche per il tenore di vita che c'è. I ragazzi hanno delle pretese, non è più come prima che si vogliono i pantaloni gridavi, adesso vogliono i pantaloni di marca, vogliono questo, vogliono l'altro. Insomma, le ragazzine si vestono in una certa maniera, hanno sempre bisogno di vestiti bellini, questo e quell'altro. Bisogna anche adeguarsi quei tempi, no? Non possiamo stare indietro sempre a pensare a quello che abbiamo fatto noi. Quello che abbiamo fatto noi lo dobbiamo migliorare, secondo me. Avanti a tutti. Hola, hola, cappa. È proprio così, hola. Vabbè, avanti, si sta addormentando, si sta la voce. Cristian. No, già, ho cambiato parecchio, stavo provando. Cristian. Eia. Io la passo o devo aggiornarla? No, non sento mai. Ma è no. Anche da me. Pure da me. Poi vai a fare l'attivo. Quindi ci pulisce il corrente. No, ci pulisce il culo in quel. Già sei. Educato, io non ci sono come no. Educato di te, quindi lo posso dire. La macchina che sta rompendo lo scapolo da questa parte? Chi lo sa, ma sempre c'è questo... Riprendi, adesso. Cosa riprendo già? Oh, dimmi una cosa, come sta uscendo che l'ho appena acceso? Sarà un po' da schifo adesso. Ah, sta uscendo bene. Cosa? Ma no, aspetta, ti stavo sovramodulando, non sono mai accorto. Dimmi, come mi senti tu da lì? Un schifo, sì, adesso. Ma schifo? Ok, dai, tutto Roger. Tanto che per demolire la gente è fatta apposta. Beh, cosa c'entra? Io lo sento basso a lui, cosa vuoi che ti dica? Mi stai spaccando tutto adesso. Ti passo perché io sono basso adesso. Non è che mi senti alto. Graziati! dai. Ascolta, quello che a me te l'ha portante. Fa però nel santo così, esatto. Che delicatezza che ha fatto. Va. Si dice mai così, sì, c'è chi mette la porta e gli vengo il canto. Dove? Coglione. Va. Benissimo, complimenti. Mamma mia, ci farai sovrasemme. Che farami già, cazzo. Non ne mandi di sovrasemme, dai, bravi. cavagallo. Ma che cacchi di le prendi, babuffuna? Come hai fatto tu stasera? Tu sei entrato, c'è un bugiardo e ti ha preso e ti ha preso le cose che dovevo dire all'altro. Buonasera, ma tu me le dette, non sapendo che stavi dicendo a me. Ma lui si sta mettendo la portante, è quello il discorso. Ieri tutti, tutta diversa la radio, ma che radio era? Una radio, un microfono così, Il microfono è cambiato. Cioè, cosa c'è, l'8001? L'8001con i più 5. Però è anche mio, ritiro muscolo. Ma te l'ha prestato? Me l'ha prestato 6 anni fa. Me l'ha prestato, davvero, ma la mettiamo ancora a Sacro Cuore. Qui ci sono già 2 anni, un anno stato là, e appena 4 anni ce l'ho. Quindi l'8001 non esiste da poco, io ero convinto che fosse di nuova fattura quell'apparecchio lì. Ma l'8001 che ho io è di nuova fattura, perché è l'8001S mi sembra, però l'8001 esiste per la prima. Allora il vecchio 8001 era praticamente, sì, il frequentimetro, però aveva tipo il Pluto, aveva anche le spede dei canali, adesso invece hanno l'hanno integrato. Per vedere il canale devi premere un tasto, sennò vedi solo la frequenza. La bella è quando c'è il canale da frequenzimetro vicino. E poi questo qui è omologato, Questo qui è omologato. Da 25 a 32 questo è omologato. Da 25 a 32 è omologato da una casa, così? Sì, è omologato da una casa con la per canale, con un ponte se ne va, dove vuoi. Anche via satellite. Lo so, sì. Sentito quello di Luigi, bomba, si era fatto modificare, una bomba esce. Una bomba, bello del radio, forte, e poi anche il molto bello, chiaro, è chiaro. L'hai anche aumentato il VAR? Sì, dopo tutte le modifiche, anche il 10 kHz, perché l'origine non ce l'ha, il canale fra non ne ha, quello mi ricordo cos'altro non ha, sono 3 o 4 modifiche che si possono fare, sull'LC, poi c'è la modifica sulla potenza, perché poi la potenza c'è anche regolabile là fuori. Alcune modifiche, le ho fatte tutte, solo che chiaramente non c'ho l'antenna, quindi non rende, però adesso come adesso gli scatti sono 25 watt in AM. Niente, va bene. Diciamo che mi stava facendo Luigi che con 3 watt, beh, lui ha messo anche i doppio modulatori, ha messo altra roba, camera echo cold, un bel po' di roba, però c'ha anche i canali alfa, sì. Cioè, canali alfa si possono mettere anche all'Alan 48, lo sai? Sì, si possono mettere all'Alan 48, all'Alan 44, sì, canali alfa si sono sempre voluti mettere, già, anche nel 500S. Solo che chiaramente non è conveniente, ma non ne vale la candela, perché su 34 cani con la cedula, canali alfa. No, il canale alfa per dire, per i camionisti se lo mettono per non disturbarli, capito? Se ne vanno sull'alfa. Ma i canali alfa comunque in ogni caso non sono omologati neanche quelli, quindi... Yeah. Il canale alfa non è omologato. Se tu guardi la tabella dei canali consentiti dalle poste, il canale alfa non c'è. Cavaga, hai ragione. Il canale alfa è un canale intermedio tra un canale e l'altro. È uno spostamento di cicli, dovete fare sempre frequenza. È una cosa praticamente che si può esistere. No, non è legame così. Ma che tu puoi dire, io sono al 40 però, c'ho un canale alfa. Se tu metti 10 kg sul 40 per 40, se lo metti sul 19 chiaramente fai 19. Ancora capito che non gli fai nulla. Però se lo metti su un altro canale ti sputi sempre 10 kg. Cavagava. Ma che sta tentando di mettersi la porta anche questo qua? Tipo ne hai già. Ma tu vai, se tu vai dalla porta, tu vai a mettergliela. Già lo sai che io, lui, non guardo in faccia a nessuno, si tratta dei buchi, anche quelli del muro riempio. Addirittura, che è forlato, sì. Adesso siamo proprio tanto, ma c'è la pubblica che non c'è l'antenna, questo qua, c'è un qua. Se metti l'antenna lì, sei scintillesco. La cosa che ho di brutto adesso prima di salutare te lo dico, che non sono fatto così, so quello che dico, che penso, dico, quindi no, via di mezzo, vabbè là, come la papà, ma faccio l'amore adesso, ciao. Ai ai ai, e vai che è meglio che stare a baracchino, comunque a Santo Medo ti arrivo. Io no, non arrivi bene, tu arrivi sempre bene, lo sai, la radio è buona, si sente bene, no? Non ha depressione, anche se comunque arriva meglio Luca. Beh, Luca c'ha il microfono elaborato. Luca è un fatto particolare, non è che io come mai altro lo guasto. Lo guasti così mi guasto, non so così mi fai, non lo risolvo. C'ho una forza, sono finto io, ma c'ho questa forza che, neanche Gesù Cristo mi blocca. Stavo facendo l'amore su che ti dico, la fanno, che forza hai? La tenere in varia. Allora, un attimo che ho cantato una canzone in diretta su quella cosa là, già, dove sei tu. Ho dato la registrazione, un amico, vediamo un po'. Scusa, c'è una campana, ragazzi. Questo coraggio mi sta avvenendo, però a me non avevo cantato mai, adesso ne ho cantato 3, 2 mi sembra 3, non mi ricordo. Aspetta che la controllo, vediamo un po'. E che frattempo vi saluto, ciao a tutti, buon proseguimento Antonio, Cristian, Gianni, Luca e anche quelli che sono in ascolto che non sono pochi, ciao a tutti. Ciao Anto, mettici poca foga. Sono passato su, più di 20 centimetri non scende. Certo. Ciao Anto, buonanotte, alla prossima, ciao. Siete cavallino. Dai, lasciamola lì. Devo stare. Così glielo do, capito? Se me lo puoi fare, sì, al limite ti do il CD, non c'è problema. Ci vuole un MP3 o intendo un DVD, cosa avevo? No, ci vuole il CD normale. Il CD normale, ma non so se sono masterizzabili quelle del karaoke. Perché? Ma nel PC bisogna metterli? Li puoi mettere anche nel karaoke? Sai perché te lo sto dicendo? Perché si vedono, praticamente si vedono e si sentono. CD video. Se uno c'ha il PC lo utilizza col PC, se poi c'ha il karaoke col video lo utilizza col video, no? Che legge sicuramente DVX, perché sicuramente sarà in DVX quell'affare lì. Ma nel senso in CD video. DVX. Ma DVX è diverso, sono altro CD video. Sì, ma non mi stai capendo. Si chiama DVX il CD video. Ah, ok, sì, è vero, hai ragione tu. Perché se no si sarebbe chiamato, cosa ti posso dire, come si chiamano gli altri, in DVD, capito? No, io un po' di film così, ma avevo un po' di film in CD video, però non ho mai, chissà che non ho fatto. Guarda, lo sai perché lo so e ne sono sicuro di questo che sto dicendo? Perché io ho un lettore che legge i DVD, gli MP3, i DVX e tutto questo che leggi esistente adesso nella macchina. E quindi se tu fai un CD video, come stai dicendo tu, che lo puoi utilizzare anche con la musica, ecco, quello si chiama DVD, DVX. Vabbè, io a casa ho un DVD che legge anche DVX, che mi sembra una cosa troppo sensibile anche. Quello è un lettore DVX e DVD. E infatti ho problemi, molte volte a leggere dei film e non leggo. Luca, bisogna che caso non lungo, poi ci divertiamo, facciamo una serata, magari ci arrostiamo qualche cosa e poi cantiamo. Cosa vuoi arrostire, Gianni? Cosa vuoi arrostire? Magari lo facciamo a barra agricola, se ci mette a disposizione una stanza. E anche, non è male. E peccole ci sono, gli agnelli lo stesso, i porcetti lo stesso. Non c'è per quanto vicino alla braccia, piano piano, fa 4 ore e da Dio. Io. Tutta che sono andati via di scuola. E c'era la figlia di quello della farmacia, e conosceva un amico mio che lavorava lì. Ci abbiamo fatto questa arrostita, siamo arrivati lì e abbiamo trovato rete di letto, tutta piena di porcetti sopra e il fuoco sotto. Altri 2 porcetti attaccati al muro con lo spiedo e il fuoco sotto. E poi, insomma, venivano dice se non basta non ne ammazziamo qualcun altro, ha detto. Però, ma quale farmacia però? Invece di scuola, non lo so quale. So che è la figlia di una farmacista. Ce ne sono 3 farmacie di scuola. E non lo so quale. Non so quale sia. So da questo amico mio che era la figlia della farmacista. Questa tipa. E io ti parlo già di un po' di anni fa, tipo con i capelli neri, bellina, di media statura. Che lui non ha con gli occhiali? No, occhiali non ne aveva. Ciolina? Sì. La conosco che è pure, adesso ha gli occhiali anche. Era la figlia di quella farmacia e anche quella dell'edicola, la figlia. E quella farmacia ha gli occhiali? Il giorno non ne aveva. Ma c'era da poco forse, c'era da qualche anno. Comunque c'era di un bel. Poi alla fine l'ha finita, ci siamo presi a finocchio a fare, c'è una gassino qua. È meglio che mi siete passamente, eh? Scherzandomi, giocando, no? Oh, io che pensate. Dico diversamente in macchina però, capito? Appassati. Io metto sempre qua le gambe di mezzo, io mi diverto anche se non faccio niente, capito? Mi diverto lo stesso. Pure io, non ho problemi, ma se c'è è meglio. Quando ne hai bisogno, sì. Andavo bene. Meno mi altro esercitato, come te ti sei ruviato. Io sono sempre sveglio. Da ora ti sei addormentato. Era bene. Vabbè, adesso riprendi, fai girare tu, dai. Ma cosa ti devo dire? Quando lo vogliamo organizzare questa storia non c'è problema, già ci vengo. Mettiamo la testa e vediamo un po' quanto sarà, 20-30 euro, io basta che ci sia da divertirsi e lo facciamo. Beh, per quello va fatta una vita. Ci vuole solo qualcuno che metta a disposizione la campagna con una camera, perché ci sediamo tutti e cantiamo. E a me mi dovresti dare un po' di tempo per quello che stiamo facendo. Come finisco, come finiamo, vediamo. La campagna di questa amica mia è stato un casino. La zia si è incazzata un bel. Allora, buonasera. Buonasera. Allora, se non c'è un'informazione, se riuscivate a telefonare, perché non buttano i cellulari? Dice che ci sono problemi con l'auto. Sì, io. Sto pensando adesso, sto facendo a chiamare Vodafone One e non ci riuscivo, con nessun parente, ma non è mai che è successo, non ho niente, quindi sta a posto. E contro lui Vodafone, sempre davanti. Io poco fa ho telefonato, però poco fa ho telefonato Antonio e ha preso benissimo. Ha voglia. Ora non è dappertutto. E prende la Vodafone? Lo so, perché ci sono delle volte c'è il segnale, alle volte no. Però quando vedo che c'è il segnale, prova a telefonare non funziona il telefono. Boh, non lo so. Guarda, io ho peccato il momento si poteva telefonare. No, proprio la mia, quella di mamma. Allora un pochino arriva il messaggio, recall, che nuovo disponibile. Ma la richiamare, tabù. Io non ho problemi, intanto ho quattro schede. E cosa te ne vai? È una team, una Vodafone, una 3, una Wind. E tu per non farli bisticciare, li hai accontentati tutti là. La far condition. La 3 mi è venuta a regalo un po', perché era sul GSM una prova che stavamo facendo, quando dice di carica. Adesso l'ho comprata. Io a 3 non mi usavi mai. Ma guarda, l'ho fatto anch'io, sono 10 centesimi al minuto la 3. È in modo conveniente. Ora la raga vi saluto, mi vado andando, dai, ci sentiamo nel prossimo, dai, tutto il circolare a tutti. Ciao, Nicolano. Ciao, la 3 non prende da nessuna parte. Ma qui si è aperto la 3, perché qui si è faccia il team la 3. Lo so, ma non me li parti non prende, dai, c'avevo il telefono 3, io l'ho preso perché mi ha incantato il telefono, facevo gli MMS, facevo un sacco di roba. Poi in effetti il telefono era bello, ma la cosa di 3 era l'offi. Scusate un attimo che vado a cambiare, beh vado al QTH piccolino. Io Davide, buttacela, mettila la catena. Brava. Prendi Alessandro, riprendi. Dove sta? Alessandro. No, Alessandro, no, non riprendo. Vengo, faccio 5 secondi di bianco, dai, che devo andare in ufficio, dai. Assolutamente. Purtroppo io bevo molta acqua, io bevo 4 litri al giorno di solito. Anch'io. Sono alcolizzato dall'acqua. Ebbè, meglio bere acqua. Qui dice che è meglio il vino. Posso stare, due giorni sta a mangiare, ma se sta bene neanche uno non posso starci, eh? Evidentemente richiedi l'acqua. E io scherzo, io mangio già uno scherzo, fidati. Ma pure io quando mi siedo in banca, è lui. Ma io quando sono al manovale, a pranzo un panino, la sera tre di pasta. Ma. No, io sento, quando sono qua, c'è roba di gatti in bassa città, mia mamma. Mangio lui, talmente tanto che mi fa anche male. No, però io mi trasportavo quasi 1000 bocchette al giorno, non devi contare. Non so. Io faccio lavoro pesante, invece. Per tutto adesso, dentro il periodo, Giulia. Cioè, allora sì che comincia a avere fama. fisico aveva bisogno di quel tot di carboidrati, perché se no andavo, mi collassavo, se no. Vabbè, logicamente che sì, vabbè, quando l'uomo lavora ha bisogno di queste cose qua, carboidrati, di tutto di più. Perché poi erano tre muratori, ero solo, solo manovale, poi facevo gli impasti, davo cemento, davo blocchetti, facevo il ponte, tutto lo facevo. E certo, tutto il giorno lavorando, sei fermo. Cioè, no, adesso sì, adesso mi fermo tuttora, però faccio lavori per mattina, faccio porte blindate, cancelli, faccio questo lavoro qua io. Questa è la mia. Ed è un bel lavoro fare anche quello. Guarda, io sono esperto, alluminio, PVC e ferro, porte blindate, pure. È un bel lavoro. Mi sembra che siano in pochi che lo facciano, no? Porte blindate sì. Va, è appunto capito. Dici di capusce, ecco. Ecco qua. Così va meglio, tanto adesso, se no magari ribomba troppo, va via. Già è un bel lavoro, cavolo, sfrutto a costruirle, a farle, mamma mia, è molto complicato. Io me le costruisco, ma le riparo però. Le ripari? Diverse, riparano la porta blindata, ti bastano quasi 300 euro, ti partono subito. È logico, sono porte particolari che richiedono una certa cosa, molto molto costose. La serratura ti va a costare quasi 100 euro, se anche ha piazza la serratura, ti va a costare quasi 100 euro. Suga, allucinante. E la porta quanto costa? Dipende, c'è da 500 e da anche a 1000 euro arrivano, ma dipende come lo fai tu, c'è anche da 2000. Ma come sono fatte dentro? C'è in acciaio. C'è, so, pure c'è il rivestimento in legno, dai. C'è un pannello, o se vuoi c'è il legno, o se vuoi c'è anche il pannello... tipo quello che mettono le PVC vitola. Yeah. E quelli lì dipende. Poi c'è, si può fare la porta blindata, cosa per aprire la porta digitale, cosa per aprirla con quattro serrature, poi dipende come la fai tu anche. Gappa. Perché poi molti mettono, oltre a quello mettono i cuci, mettono. Mettono anche la doppia serratura, ho visto. Molti lo fanno quel lavoro lì. Guarda, la serratura quando non è chiusa, perché blindata te la aprono due secondi. Se è chiusa non la scondi neanche con la mola avanti, con la porta. Sento di gente che dalla porta blindata è rimasta delusa, che sono riusciti non so come ad aprirla lo stesso. Guarda, la porta blindata è comoda. Se tu la lasci, la chiudi normale, senza male passate di chiave, te la apro con una lastra anche. Sì, lo so, infatti è così, ma anche quando io so di una persona chiusa bene, proprio chiusa a chiave, non so come cavolo hanno fatto, mi hanno scalfato dal muro addirittura, le avevano abbassato un matteccio. Sì, la poi se la togliere vanno al muro e basta, solo quella puoi fare, perché io ho visto, io con le porte ne ho aperte quelle porte, perché hanno un difetto con le serrature normali, le vecchie, che veloce salta le piazze, saltano. Cazzo. Un casino a piazzarle, cazzo. Comunque, già... Ma non sai quanto ce n'è, io ne ho visto un bel in giro per Sassari, queste porte qua, se tanto venne di gente che l'ha messa. E dopo i tecnici si sono a pagare, infatti, per una serratura così, fidati. Beh, logico. sono belle comode perché non risparmi neanche se ti impegno, sta tranquillo. Sì, l'unica cosa che è sono molto costoso. Tu qua il discorso. Che cosa? Forse blindata. Allora io quando ho preso la casa ci davano la porta normale. Se la volevi blindata aggiungevi 500 euro e quella normale non te la mettevano. Ti mettevano direttamente la blindata e io l'ho presa. Dopo che hanno finito di costruirla, molta gente ci ha ripensato. Se l'ha presa l'ha pagata 1.500.000, 1.500.000. Ma sei grande, sì, no? Già, quelle ci sono poche blindate, costano anche 3.000 euro, mio, te le dime. Sto mangiando un pezzo di spianata, tanto, di quelle spianatine piccole, la metà, però un po' di languore. Ho fatto bene. Bianco, per me un attimino, la tengo subito. Dove è la fame è giunta? No, devo andare in ufficio all'avvocato. Porra, ma non sei biscetto di truppo, Sergio? Non sono ancora andato. No, non è ancora andato già, c'ha ragione. Ah. Cosa non ti ha sentato? Che ti ho detto che l'autospurgo di cose di planeta stava arrivando. Provo a andare di nuovo a finire che non ce la fa più. Ah, fatti tu su i soldi. Qui si bagna. Ah. Dormi tranquillo e asciutto, lì nel notte serve tutto. Ah, non mi sa di vera, va, E Alex? Sto chiamando. Parito. Dimmi tutto grado. Esatto. Dimmi che sono arrivato adesso. Ero in cucina, ero, non vi sentivo. Oia, oia. Dimmi cosa è successo. No, niente, ho detto beccato, stai. No, stavo guardando un baracchino piccolo che sono di qua, una fogliette. L'ho tutto grande adesso. Per quanto so io, non so, dice che non funzionava. Lo devo provare. Provalo. È fusibile per prima. Ma vuole? Cosa ti ha detto che non accendeva? Ora avevo dato persona a controllare, ma aveva detto che non funzionava. Non so se è per il finale di qua, di inviare questo finale è una stupidaggine. Ti è arrivato? Adesso a bucare un po'. Ma io valutavo la alimentazione che è bucato un fusibile, no? Ma non accende nulla. Provato, se voglio dirti la verità ancora non l'ho provato. Dammi un trippo, lo proviamo dopo. Adesso vado un po'. Là, ti faccio sapere se sentite qualche rumore estraneo, so che ho bruciato. Fare come una persona che gli diventa la faccia nera del coppietto lineare di nuovo. E dormi tu. La mano sul tasto del microfono da tavolo, alla linea del vicino, ha lasciato la portata cliccata, poi boom, sentite in diretta. Ma io più gaggio, senti questa. Ora, praticamente, mi hanno presentato una cosa, mi sono addormentato, come io ho l'abitudine di fumare la notte, capito? La mano, la sigaretta, è scesa sempre di più ed è andata sul frontalino di quello che mi hanno dato. Tu immaginati la conseguenza di chi sono successo. Ah, ti avevano prestato la parata. È una cosa che, vabbè, gliel'ho pagata e è finita così, meno male è finita bene. Beh, invece io ne conosco uno che, come te, ha fatto lui si sdrumito e proprio come si muoveva con l'asura. Ma si è bruciato tutte le lenzuole, il bubello, tutto qua. Mamma mia, chissà, è pericoloso davvero, lascia perdere. Forse qualche volta mi è successo, però sono riuscito a accorgermene in tempo, manco mai. Infatti dalla volta, basta, io non fumo più nel letto, Brutto vizio, mai fumato nel letto? Manch'io. Anche io. Una cosa brutta, raga, porco Giuda. No. Gesù, un buon galvaccone fumo, manco dentro, Anche io. Io anche dentro, però devo alzare di notte, mi alzo e me la fumo. Mi apro il rubinetto, la spengo con l'acqua e si rampano le batturiere. Che cappa. Non so, io sono bello tra gli altri, sono bel bene, cavolo. sempre fatto il baracchino, come al solito. Si intende le drone da lontano. Quando stanno? Come ieri sera. Ma però è molto molto lontano. Ma lo sai che io ho staccato l'antenna, mi sono dimenticato di attaccare, c'è il baracchino dove stazionare fondo scala. Cazzo, cosa succede, no? Sì, non usa bica deve aver staccato l'antenna. Lo sapevo, me ne sono dimenticato, anche tu. Non ti è mai successo a te che ti dimentichi una cosa? Sì, qualche volta mi dimentico delle cose. Su certe cose ci vado molto... molto più con cautela. Sì, vabbè, drummi stamane che non mi dice che ho bisogno sull'apparecchio. C'è della cautela io. Ho preso, ho comprovato dietro, visto che era staccato e non l'ho attaccato subito, non è che è quello il problema. Per dire, bisogna cambiare un rai. Se chi c'ende chi c'ende, mica magari chi c'ende è un casino, ma tipo futti. Non schiacciate una volta solo, come ho visto le stazionarie, perché io schiaccio e guardo, faccio il controllo ogni giorno. Ho pagato, e da voi ti abbigi subito quando non andiamo in diverso. Santa fondo scala, catta, detto, poi molla tutto. Ho trovato il filtro, c'è qualche filo staccato. Ho trovato il filo, ho detto, ma è fuzza, è staccato l'antenna, era un grido. Un grido, via. La mattina sicura succede quando... lo smitter che si va la bottome. Cosa? Senza antenna, lo smitter, scendo tutto di botto. Quello non l'ho guardato. Ho guardato quello, visto che noi c'era il corso del... lui si chiama il Rosme. Cappa, ma secondo me no, al contrario. Ma al contrario. Non ti segna nulla, non esci, ti avviso che non esci. Sì, va la fondo scala è stazionaria. Ah, le stazionarie, poi basta. Tu hai detto lo smitter mia tu, ha ragione Alessandro. Se tu provi a attaccare l'antenna, vedi, non ti si va la tutto. Ho guardato, non l'ho mai guardato, credo, la verità non lo so. Però ho visto, mi è bastato quello dell'SVR, delle stazionarie. Beh, è un grido. Se tu guardi lo smitter, è pure strano al radio. Lì anche il volume è così e non si intende nulla, è proprio muta, è diversa dalle altre volte, te ne accorgi anche da quello che c'è gente che non usa questi apparecchi, ma usa apparecchi professionali. Dimenticato che per dire era in AM, c'è un fallineale AM FM, dopo è passato in manda laterale, si è dimenticato in AM FM, che ce l'ha portato e puff, lineale è passato. Non sai così, basta un po' ti butti. Cosa parte già, perché io sono uno di quelli. In lineare. Sì, ma partono i finali. Si brucia, non so cosa parte, dipende. Dipende dalla fortuna che tu hai. Bene, comunque io ho un 747 da rampazzi. Non lo buttare, no? Non ce l'ho qua, è solo che per questo motivo... Ha fatto puff. Non ha fatto puff, ma da voi non ha fatto altro. Stare molto attenti. Io controllo prima di rientrare, capito? Quello lo faccio sempre. Stavo uscendo molto bene col presidente. Da voi ho lasciato tutto fermo come era, ho girato LM, o matera. Banda laterale, ha fatto il suo tocco. Perché tu quando gli mandi la frase devi muovere anche il tastino del commutatore e mettere da MFM a USB e USB. E c'è scritto qua, c'è scritto doppio USB e poi c'è una stecca, una sbarra C e W. Sicuramente lo dovevo mettere lì. E vabbè dai, ma si vecchia, non l'ho perso. Io quello che mi avevi dato tu me. Era nuovo, già due ne hanno bruciato i predati, io non l'ho attaggiuto e gliel'ha bruciato il temporale. Allora, AMFM è fatto qua, USB e SSB. Spagliato sono illegale, si aspetta. Cosa? Queste sono appagliature illegali. Cosa? Scala di fame. Sì, vabbè, ci questo lo sappiamo, anche tu lo usavi. Non te lo ricordo che tu lo usavi. Sì, lo usavo, ma è il 2001, però è telegramma. E vabbè, usare quello di voi, tanto da accettare fatto come dava quello che usava Alessandro. Non niente di più. E vabbè, già va bene lo stesso, dai. Certo modo è fatto una volta. Infatti. Poi lui sta dicendo, non sta dicendo che lo usava, sta dicendo che ce l'aveva, bruciato, ma ce l'ha. E ma se non fa lo scambio, così si brucia il mio, quella cosa lì. Purtroppo l'ha fritto. Però questo è il regalo anche usare il VHF marino, e poi tu se ne attendi. Il mio oggi ha fatto CB, scusa. No, è CB e marino. C'è il comunicatore, tu come ti fai sul marino, tu puoi andare sul marino quando vuoi. Sì, ma ho già anche una marina però. Non interessa quello, tu l'altra la puoi mettere e staccare quando vuoi. Sai che te ne prendi una antenna marina, ricordati che non c'è bisogno manco di massa. Quindi tu ti puoi comprare un'antenna, appoggiarla sul tavolo e andare. E poi facciamo la faccia un'antenna, non la fai. Ma la GBC la vendo, ma per dire, tante cose non si possono fare, si fanno. Interessa a te che non crei problemi a nessuno. Il problema non è che la nessuno, questa parte ci dà fatto pure di puliti e sono contento. Nessuno c'è. Lì, nemmeno a fare questa osservazione, oppure se lo vedi che ha un barrasone come apparato, è enorme, è grandissimo. Non sarà così grande, no? Se si usa in barca sarà lungo, ma non largo. Guarda, attenzione, vedi il Pluto? Sì. E rimane tipo il Pluto, è solo più alto. Cioè riconosco gli apparecchi marini, perché io quando vado sulle barche, prima cosa che faccio sulle imbarcazioni grosse, tanto che entro nella, dove c'è la direzione, che praticamente è da dove pilotano la barca, dove c'è il timone, lì c'è sempre la radio, la prima cosa che guardo è che la radio c'è, c'è il telefono e la radio c'è. Quello sempre c'è, ma non il telefono e la radio, sono, come fanno a navigare tranquilli? Però il telefono fisso mi ha appeso come il telefono di casa. Beh, deve essere così pure, eh? A bisogno mio, non lo posso fare anche il numero, però devo pagare la capitaneria pure. Alessandro, riprendi. Già sono qua, già. Io stavo pensando a quello che stavate dicendo poc'anzi, e gabba. Infatti, quello che stava dicendo Gianni, non svegliare il cane che dorme. Guarda, questa apparata, pure se è brutto, fa bene lo stesso, sono contento di quello che ho ancora. Gabba. Anda bene. Adesso, comunque, magari si può aggiustare. Che bisogno ce l'hai? Cosa? Di quell'affare là? Sicuramente è da pazzi. Lascia perdere già. Invece, oggi mi è venuto un amico e mi ha detto che ho fatto una persona che c'ha uno di quegli affari belli, forti, grandi. Capito? I blocchi militari grandi, no? Anzi, ci devo farmelo conoscere, chissà se funziona però, Militari non te ne fai nulla, ne sa. Se sono militari, sono sull'altra frequenza, non ti servono a te. No, a quanto pare dici che funziona, si sente gente. Io non ne comprendo nulla, è un pezzo da museo, Ah, l'apparato, io pensavo lineare. Oh, apparati, stiamo parlando adesso, ho cambiato discorso, vabbè, scusami. Gava. Apparati militari, c'è un ricevitore. Non so, è quasi mezzo metro di roba, è grande, capito? Ma faccio mezzo metro di roba, è che apparato? Sono curioso quanto è te, Su, ebbene, non ho visto apparati militari io, del 44 pure, ma non saprei. Ci sono queste cose in vendita, sono. Purtroppo, vabbè, è sempre roba che bisogna avere quattro occhi, bisogna stare attenti, perché magari ti funziona in una banda, ma dopo non ti funziona più nell'altra. Ma sempre vedere e provarli pure. X per me, dai. Anzi, dai, vi saluto tutti, buonanotte, ci sentiamo. Io vi ascolto per un po' e poi vado a letto. Dai, ciao, aspetterete tutti salutarti. Ragà, mi sa che prendo le tue sembianze, raga. Dai, buonanotte a tutti, raga. Aspettate anche a voi, dai. Gianni Loges.